Assiotea, la donna che sfidò Platone e l'Accademia, di Adriano Petta, edizione Stampa Alternativa. Parte prima, le miniere dell'aureo. 1. Una statuetta di marmo nero. Dalla bocca del pozzo giunsero rumori soffocati. Demos corse ad aiutare i nostri compagni che avevano finito il loro turno. Boccheggiando, faticavano a restare in piedi, stravolti, sporchi di polvere. Erano in tre: un uomo anziano, un ragazzo e una bambina. Lei aveva 8 anni, si chiamava Mefite, una faccetta smunta, occhi spenti, imbrattati di pus e di sangue. Si trascinò verso di me, cadde esausta ai miei piedi, mi abbracciò le gambe poggiando la testa sulle mie ginocchia. Era stata assegnata al gruppo di pauso da un mese. Non aveva mai proferito parola. Sottoterra era addetta alle gallerie anguste, ostruite dai crolli. Si intrufolava come una talpa in quei lunghi budelli, raccoglieva le rocce più piccole e contribuiva a riempire i cesti e i carrelli. In un mese non avevamo mai sentito la sua voce. Si era affezionata a me. Al solo vedermi prendeva a correre con le sue gambette scheletriche, mi prendeva per mano, ma senza che il suo visetto si aprisse mai a un sorriso. Demos afferrò sotto le ascelle il vecchio, aiutandola ad appoggiarsi sulla roccia dove ero seduta io. Riprese fiato. Poi Ippaso ci disse con voce rabbiosa: «Quel bastardo di Temisone ha fatto togliere tutte le colonne d'argento, pure negli incroci». Dopo la scossa di terremoto di ieri si è fatta qualche crepa. Attenti, potrebbe crollare tutto. Con lo sguardo mi rifugiai nel lontano porto dell'Aureo, nel mare increspato. Sulla collina sibilava un vento fastidioso che non smetteva mai. La luna piena illuminava il gigantesco formicaio che aspettava di inghiottirci. Alzai lo sguardo sulle grotte in alto dove si snodavano i nostri giacigli. Intravidi il povero disgraziato imprigionato nella gogna, una fetta al cuore. Poi dovetti forzare le mani della bambina, artigliate alle mie gambe. Per farmi perdonare cercai di toglierle il pus dagli occhi con un lembo della mia tunica. La baciai sulla fronte. Con la carezza d'un ultimo sguardo seguì Demos, già quasi ingoiato da quell'inferno. Quando giungemmo in fondo al pozzo ci trascinammo carponi per il cunicolo di destra. Demos portava con sé la lucerna a olio. Io trainavo il piccolo carrello in cui avevamo messo il piccone, il martello, lo scalpello, il badile e l'otre con l'acqua. La galleria era stretta, alta mezza persona. Non si arrivava mai alla fine. Mancava l'aria. Solo verso la metà c'era un buco di aerazione. Una volta giunti all'imboccatura respirammo a pieni polmoni. Demos, tu l'avevi detto a Temisone che quelle colonne, alla fine dei lavori, le avremmo tolte e trasportate di sopra. Occhi sanguigni inchiodati ai miei. L'avevo pregato, rassicurato, per il bene di tutti. Maledetto, se non crepiamo qui sotto a costo di finire alla gogna, l'ammazzo. Proseguimmo. A un certo punto Demos si bloccò. Là dove mancava una colonna c'era una crepa nella parte alta, il soffitto si era incrinato, il carrello non poteva avanzare. Nemmeno Demos riuscì a infilarsi nel foro. Mi fece passare avanti a lui. Provai io, afferrai la lampada. Mi disse di andare a prendere dei pezzi di legno che avevamo portato qualche settimana prima, sempre che quel bastardo di Temisone non avesse fatto togliere anche quelli. Mi trascinai da sola per un buon tratto. Riuscii a trovarli, mi tolsi il cordone che avevo come cintura. Li legai e presi a strisciare, tornando indietro, attenta a non versare l'olio della lampada. Quando lo raggiunsi, Demos utilizzò metà dei legni per puntellare il soffitto e solo dopo, usando il piccone, fece cadere 2 macini dall'alto. Li ficcò nel carrello, prendendo lì la lampada e avviandosi verso l'imboccatura del pozzo per scaricarli. Una volta tornato, afferrò di nuovo la lampada e dovette passare sopra di me, strisciando per poter riprendere la posizione di prima. Non ce la fece far finta di niente. Mi girai agitata. Una gamba sua tra le mie. Tremai. Demos s'affrettò a sgusciare dall'altra parte, si girò, mise la lampada in mezzo ai nostri volti. Assiotea, te lo dissi il primo giorno di non preoccuparti per queste cose. Voce rabbiosa, occhi di fuoco. Mi dispiace per te, Demos. Gli altri lo fanno, lo so. Io non ci riesco. Un ghigno traboccante d'amarezza. Quel bastardo di Temisone sapeva perfettamente quello che faceva quando ti assegnò a me. Si girò di scatto e prima di riprendere a trascinarsi con un soffio di voce mi disse: "Va bene così, stai tranquilla, non preoccuparti." Quando raggiungemmo la fine della galleria, senza perdere altro tempo, Demo si mise a scavare con martello, scalpello e piccone per raggiungere un altro pozzo verticale. Il minimo che pretendevano da noi erano 5 carrelli al giorno, ma dovevano essere dei buoni blocchi. Il colore grigio sul nero era indice di molto piombo argentifero e sarebbe stato facile estrarlo dopo il lavaggio, l'arrostimento e la coppellazione. Ogni tanto Demos mi passava i blocchi di roccia che cercava di ridurre in frantumi. Io gli porgevo il piccolo otre con l'acqua e mentre lui beveva qualche sorso depositavo i massi nel carrello. Quando questo era pieno, Demos mi passava la lampada a olio, si sdraiava a riposare e io mi mettevo a spingere il carretto di legno verso l'imboccatura del pozzo. Si soffocava. La nostra attenzione era concentrata là, nella lampada. Era la nostra clessidra. Quando la fiammella impallidiva erano trascorsi 11 o 12 ore. Da 3 anni Demos era stato mandato all'estremità meridionale dell'Attica, alle miniere dell'Aurio. Ogni giorno scendeva nell'Ade a scavare argento assieme ad altri 20.000 schiavi. Solo a metà, Antesterione, invece, io ero stata assegnata al gruppo degli schiavi di Midia, uno degli 8 ricconi ateniesi che si erano accaparrati lo sfruttamento dell'Aurio. Demos aveva 28 anni, io ne compivo 19 il giorno dopo, l'11 ecatombeone. Da quando gli ero stata affiancata, 5 mesi prima, aveva fatto di tutto per rendere meno dura la mia vita. Non ci si può abituare a questo inferno, Demos. Si fermò, volgendo il capo verso di me. Non potei fare a meno di porre lo sguardo sulla profonda cicatrice nel mezzo della fronte, il marchio a fuoco a forma di mezzaluna inflittogli dopo il primo tentativo di fuga. Assiotea, siamo sepolti vivi. Mi prese dalle mani la borraccia. Il brutto di noi schiavi, come predicava ieri quel maledetto Temisone, è che siamo delle bestie ingrate. Dovremmo essere onorati di contribuire alla grandezza di Atene, capisci? Perché questo ritorno in massa a scavare? Ci stanno facendo lavorare in gallerie e pozzi abbandonati. E poi tutti quei poveri bambini. Quanti ne sono arrivati? Hanno bisogno di molto argento. La guerra si avvicina. Prima o poi il Macedone verrà a conquistare l'Attica. Questo lo sanno anche le pietre. Non credo, Demos. Quella gente che mira solo all'argento. Ad Atene sono pochi quelli che vogliono combattere. Afferrò lo scalpello, poi lo conficcò nella parete rocciosa. Eppure hanno rafforzato il controllo. Questi bastardi non dimenticano quello che accadde un'ottantina di anni fa, la rivolta e la fuga di oltre 20.000 schiavi. Hai visto quanti arcieri sciiti sono arrivati in questi giorni? Oltre 3.000, armati fino ai denti. E continuò a scavare rabbiosamente nella roccia. E dire che sono tutti schiavi come noi. Mi faceva male vederlo così furente. Ma molto ben trattati e ben pagati. Si mise a martellare con più accanimento e con la promessa del riscatto. E ogni tanto l'assemblea degli ateniesi la mantiene. Così questi spietati barbari del nord non hanno alcun problema a massacrarci se ci ribelliamo. Aspettai che estrasse il lungo scalpello dalla pietra che si girasse verso di me. Demos, sei stato marchiato a fuoco già 2 volte. La prossima volta per te ci sarà la fine più orrenda, la gogna. I suoi occhi mandavano lampi. L'olio della lampada era quasi agli sgoccioli e io avevo fatto solo 2 scarichi. Mentre tornavo indietro, trascinavo il carrello vuoto, mi girò la testa. Un rumore sordo, una specie di tuono cupo. Quando cominciai a capire, fu troppo tardi per fuggire. Il terremoto. Sentii un crollo alle mie spalle, presi a trascinarmi verso Demos. Intravidi la sua faccia stravolta mentre cercava di alzarsi. Tentai di raggiungerlo. Ma alla volta crollò anche davanti a me. Un masso mi colpì sulla spalla, fui trafitta da un dolore lancinante. In mezzo alle pietre, Demos urlava, mi chiedeva se stavo bene, se potevo fuggire. Prima che potessi rispondergli, però, un altro boato spaventoso. Lentamente mi inginocchiai davanti alle pietre franate, intravidi un lembo di luce. Demos mi passò la lampada attraverso un foro affinché esplorassi dietro di me. Mi trascinai. A una decina di passi il soffitto della galleria era crollato, ostruendola con enormi macigni. Indietreggiai avvicinandomi al foro. Ripassai a Demos la lampada. Siamo in trappola, Demos, da qui non usciremo più. Con il paso avevamo cominciato a scavare un foro tra la sua galleria e la nostra. Era un caso come questo. Voce accorata. Dovrebbe essere qui. Sentii vibrare un colpo di piccone, un altro ancora. Vidi la fiammella tornare verso il foro. Assiotea, è l'unica speranza. Devo arrivare all'altra galleria, poi scavare un altro buco fin dove stai tu e farti uscire. Ma ci vorranno giornate intere. E tu sei solo, sei già stanco, la lampada si spegnerà. Fammici provare. Ogni tanto parlami, fammi sentire che sei viva. Dobbiamo sbrigarci, c'è poca aria. Si allontanò, ma tornò subito indietro senza lampada. Parlò vicino al foro con una voce che non gli avevo mai sentito. Assiotea, se ce la caviamo, promettimi che farai una cosa per me. Avrei voluto stringergli la mano. A tentoni infilai la mia nel foro. Lui aveva fatto altrettanto. Le nostre dita si sfiorarono. Ti prometto che ci proverò, Demos. No, non quello. Io voglio imparare a leggere e scrivere. Questo vorrei da te. Avevo un nodo in gola. Risposi alla stretta della sua mano con tutta la forza che mi restava. Sarò onorata di farlo. E tu, Demos, mi regalerai una di quelle statuette. Le sue dita non si decidevano a lasciarle mie. Tutte. Te le darò tutte, Siotea. Resisti, respira piano, non sprecare aria. La sua mano sfuggì alla mia presa. Iniziarono a risuonare i colpi del piccone, tutti uguali, secchi, duri, senza speranza. Poi mutarono di intensità, più cupi, più vuoti. E allora mi sdraiai a pancia in giù, immaginando l'ombra di Demos che scavava nel muro, quasi vedendo quel suo corpo magro, agile, che aveva ingaggiato una battaglia testarda senza arrendersi. Il tempo passava, la testa mi girava, respiravo male, pensavo alla luna, al mare sotto le colline dell'inferno, al porto dell'Aurio, a una barca che andava a vele spiegate, a Fliunte, a Collelupo, alla mia infanzia. E in quel momento avvertii una fitta al fianco, provai a togliere la pietra, rimossi del terriccio con le dita che potevo rimuovere e con raccapriccio sentii una mano, una piccola mano che attanagliava qualcosa. Ania. Il corpicino della bambina schiava che lavorava con me e con Demos qualche mese prima, morta fra le nostre braccia quando avevamo scavato quella galleria la prima volta. Ania, povera creatura, il terremoto aveva smosso la tomba che Demos aveva scavato per lei. Le avevamo lasciato tra le dita, strette nell'ultimo atto della sua piccola povera vita, la statuina che Demos le aveva regalato come bambola. Aveva 6 anni, era riuscita a sopravvivere un mese. Aveva una tosse spaventosa, ma Temisone non si era fatto impietosire. Un bambino schiavo rendeva un ovulo al giorno e i ricchi di Atene puntavano sul rilancio delle miniere utilizzando proprio i bambini schiavi, quelli raccolti nella spazzatura. Erano tanti. La povera creatura aveva trovato in me, in Demos, una madre e un padre. Quel giorno Anya si era sdraiata nella stretta fenditura. Alla luce della lucerna mi aveva fissato con due occhioni pieni di riconoscenza. Aveva tossito sputando sangue. Poi si era addormentata per sempre, stringendo in mano la statuina di marmo. Piangevo, tremavo, poi venni assalita da una tempesta di polvere che volteggiava nella mia mente. I colpi di piccone li sentivo sempre più lontani. Come da un mondo sconosciuto, la voce di Demo si invocava il mio nome, ma era lontana. Lui urlava, mi chiamava. Provai a rispondergli, forse non mi sentiva. Gli sussurrai di salvarsi, almeno lui. Ma quell'uomo testardo non smetteva. Gridava disperato: Assiotea, vieni! Allunga le mani, forza! Ce la fai a passare dal foro che ho fatto? Più di questo non è possibile. È pericoloso, potrebbe crollare tutto. Allunga le braccia, per l'Acheronte! Non t'arrendere proprio adesso, fallo per me! Riuscii a raggranellare qualche residuo di forza cercando quell'unica improbabile via di fuga, mordendo la polvere con le labbra, trascinandomi verso il grido disperato di Demos. Alla sua voce era attaccata una mano. L'aria aveva un nome, un volto, anzi un marchio sulla fronte. Non avevo mai visto una luna così sfavillante. Demos mi teneva fra le braccia. Accanto a lui Paso gli porse una ciotola. Demos cercò di farmi bere, sussurrandomi di fare piano. Altre figure si muovevano attorno a noi, verso la bocca del pozzo. I miei amici fecero largo alla possente figura di Temisone. Sentì Demos rivolgersi a lui. Che fastidio ti davano quelle colonne d'argento? Nessuno ve le toglieva. Quando si esauriva la vena, le avremmo portate tutte in superficie. Avvicinò ancora la ciotola alle mie labbra. Mi fissava disperato, tornò a lanciare uno sguardo violento verso Temisone. Ammazzateci subito e facciamola finita! Temisone ci lanciò un'occhiata beffarda, grattandosi il naso bitorzoluto. Ad Atene hanno detto di accelerare i tempi. A partire da domani vi daremo altri bambini e pure una suonatrice di aulos per ogni galleria, per scandire il ritmo del vostro lavoro. Sarete pagati un obolo in più al giorno. Contenti? Ma occorre aumentare la produzione. Ghignò soddisfatto. Schiavo, di che qualità ti sembra la galena argentifera? Puntellate alla volta, con le scosse di terremoto sta crollando tutto. Porse la ciotola all'amico Ippaso, poi di nuovo rivolta a Temisone. La maledetta vena d'argento mi sembra buona. È tutta una chiazza grigia, argento al 70%. Invece dell'obolo in più, dateci qualche asta di ferro, di legno per puntellare il soffitto. Se non lo volete fare per noi, fatelo per la vostra maledetta Atene. L'omaccione si grattò il ciuffo di barba grigia sulla punta del mento, prese a farsi largo fra i minatori, poi ci ripensò e ci gridò: 2 giorni di riposo, non di più. Non pagati, naturalmente. Ed esplose in una risata oscena. Demos provò a sollevarmi, voleva portarmi alla nostra grotta sulle sue braccia, ma era distrutto dalla fatica. Fu Paso che mi prese e ci avviammo. Giungiamo nei pressi della nostra caverna, sulla spianata da cui si dominava il formicaio della miniera, costantemente piantonato da 2 arcieri di guardia, ecco il condannato alla gogna. Nudo e scheletrico. Pitone, questo è il suo nome. Poteva muovere solo gli occhi, che ci seguivano imploranti, chiedevano di ucciderlo, di mettere fine al suo strazio. L'antro roccioso serviva una trentina di minatori schiavi, ma i giacigli bastavano solo per la metà, visto che si lavorava sempre a turni, giorno e notte, senza interruzione. Per il bestiame umano non c'erano feste né riposo. Ci era permesso possedere solo una bisaccia, una cassetta dove tenevamo le nostre cose, i pochi oboli della paga per procurarci il misero pasto quotidiano. Mefite dormiva tutta rannicchiata, la testolina quasi nascosta sulle ginocchia come un cane. Ippaso svegliò i 2 poveracci che occupavano i nostri stessi giacigli. Demos e io ci lasciamo cadere sfiniti al loro posto. Il nostro amico ci portò delle olive, un'altra ciotola d'acqua, poi ci lasciò soli. Demos volle vedere la mia spalla, temeva che ci fosse qualche frattura, strinse con forza. Il dolore era sopportabile. Ritirò le mani imbrattate di sangue. Estrasse dalla sua bisaccia un piccolo contenitore di ceramica, mi spalmò un unguento inodore sulla ferita, poi mi aiutò a sdraiarmi sul giaciglio. Mi accorsi che evitava il mio sguardo. Dovetti scuoterlo. Dietro la forza incontrollabile degli occhi neri, al di là di quella luce che esprimeva la tenacia e la solidità di una roccia, per la prima volta si intravedeva una crepa. Respirò profondamente. Non riusciva a placarsi. Mi afferrò una mano tra le sue, calde, forti. Assiotea, ci credi in un'altra vita? No, Demos, non ci credo. Lasciai che le sue mani riscaldassero le mie dita, il mio cuore. Ma ho letto dei libri che non chiudono tutte le porte. L'accenno di un sorriso. Libri di religione, di filosofia. No, Demos. Libri di scienza, Leucippo, Democrito. E in questi libri si parla di un'altra esistenza? Mi sorrideva beffardamente, scuotendo il capo. No, ma io tra le righe ho letto questa possibilità. Le sue mani imbrattate di piaghe e di sangue mi stavano restituendo la forza di vivere. Glielo dissi. Allora, manterrai la promessa, Assiotea di Fliunte. Ti insegnerò a leggere e scrivere, Demos. Ti devo la vita. Faceva sforzi sovrumani per nascondere la sua commozione. Spero che tu abbia letto bene tra le righe di quei libri. Mi piacerebbe avere anch'io una possibilità. In un'altra vita vorrei poterti chiedere di dividerla con me. Le sue mani bruciavano, tremavano. Demos, non dovevo dirtelo. Oggi ti senti debitrice nei miei riguardi e io ne ho approfittato. No, Demos, no. Ma se non mi liberavo di questo pensiero, impazzivo. Mollò la mia mano e si sollevò la tunica. Credimi, quando mi riferisco solo a un'altra vita, e non a questa, e con uno scatto improvviso si strappò di dosso la benda di cuoio che gli copriva l'inguine. Lasciò che i miei occhi vedessero. Tremava, aveva gli occhi colmi di dolore. Me lo tagliarono quando fuggì la seconda volta. Avevo la tua età. Si coprì. Ci tenevo che tu lo sapessi. Come vedi, non hai motivo di preoccuparti. Si sdraiò sul giaciglio di legno, lo sguardo perso nel soffitto di pietra. Cercai le sue mani. Non voleva, mi sfuggiva. Dovetti implorarlo, gli dissi che se non mi dava subito una delle statuette che mi aveva promesso, non avrei mantenuto il mio giuramento. Cercai di rasserenarlo, ma ero commossa anch'io. Riuscii a farlo sorridere, promisi che gli avrei insegnato a leggere anche tra le righe, che con quel segreto lui avrebbe potuto cambiare vita, guadagnare il suo riscatto, diventare libero. Si alzò, aprì la piccola cassa di legno situata dietro di noi. Vi armeggiò, ne estrasse una statuetta, poi un'altra ancora. Trafficò e soffiò la polvere. Cercò di pulirne una con uno straccio. Infine si girò verso di me porgendomela. Mi sollevai su un fianco. Guardavo la statuina di marmo nero. La giravo e rigiravo tra le mani, emozionata, senza capire il perché. Spezzata irregolarmente alla base, raffigurava una creatura femminile, una vita esile, capelli raccolti dietro la nuca. Aveva lineamenti diversi da tutti quelli finora visti e immaginati, zigomi lievemente sporgenti, occhi fortemente incassati, bellissimi. Tutto il volto era un sorriso. Emozionata, sollevai gli occhi. Demos mi fissava con il suo sguardo intenso. Pensa allo scultore che l'ha modellata. Non può averla sognata. Questa è una donna reale. Si sfiorò distrattamente il marchio a fuoco sulla sua fronte. Da quale terra può provenire un'immagine simile? Girai la statuetta, la mirai e rimirai con attenzione. Dove l'hai trovata? Nelle miniere d'oro del Pangeo. Queste altre invece a Tebe. Sono stato comprato e venduto da Macedoni, Tebani, Ateniesi. Sollevai gli occhi verso di lui. E qui, nell'aureo, hai trovato niente? Demon si mise a frugare nella cassa e ne cavò dei frammenti di una scultura. Me li mostrò sulle sue palme schiuse. Osservai con attenzione, provenivano chiaramente da statuine diverse. Un frammento di marmo durissimo, nero, sembrava uno spicchio di cielo, di luna sul lato, un velo di pigmento con lievissime tonalità di azzurro e argento. Un altro invece poteva essere un pezzo di tempio, di teatro o di colonna. E poi i colori, colori che sembravano appartenere alla luna. Demos mi raccontò di averli trovati nei pozzi abbandonati sulle colline verso Camarizza. Riposati ora, sei distrutto dalla fatica. Se vuoi, più tardi comincio a insegnarti a leggere e scrivere. Sul suo volto apparve il più timido dei sorrisi. Mi piacerebbe conoscere tutte quelle cose che hai scritto in questi 5 mesi. Mi dicesti che erano i tuoi ricordi, la tua vita. Mi strinsi la statuina al cuore. I miei brutti ricordi, la mia brutta vita. Li leggerai per me? Abbassò gli occhi. Oggi è un giorno particolare. Ci tengo a conoscerti bene. Non riuscii a nascondere uno sguardo pieno d'ansia. Riposiamoci allora. Voglio che anche tu conosca le mie ferite, Demos. Mentre la mia mente si addormentava, per la prima volta nella mia vita sognai che Morfeo assumesse la forma di un uomo, di Demos, che con le sue rapide ali mi riportasse a Fliunte. 2. Il grande ordinamento. Si erano appena conclusi i giochi di Argo. A Fliunte era l'anno dell'Arconte Rintone, mentre ad Atene era l'anno di Teello, l'undicesimo giorno di Ecatombeone. Avevo compiuto 17 anni. Era una tarda mattinata del mese di Metageitmione. Le mura robuste isolavano la casa dal caldo estivo che infuocava Fliunte. Mamma Antino e io passavamo quasi tutta la giornata nel gineceo, l'unica stanza con una finestra che dava sull'esterno, esposta a ponente, da cui entrava la luce del giorno fino al calare della sera. Le faccende di casa, compresa la spesa al mercato, le svolgeva quasi interamente la vecchia demodice, zia di mia madre, vedova da una vita. Avevo 7 anni quando mamma mi insegnò a leggere e scrivere. Mio padre, Piramo, commerciava in papiro che acquistava in Egitto e in Trinacria, che poi rivendeva a Sparta, Mantinea, Corinto, Atene e un po' in tutta l'Ellade. Tranne i pochi mesi invernali, in cui le condizioni atmosferiche erano proibitive per la navigazione, stava via quasi tutto l'anno. Ogni volta che arrivava, consegnava mucchi di libri a mia madre affinché ne facesse delle copie. Quando tornava, ne aveva altri, e poi altri ancora. E quando ripartiva portava con sé le copie fatte per consegnarle ai committenti. Mia madre vergava con una scrittura bellissima, mentre trascriveva non riusciva a liberarsi di me. Fin da bambina le stavo appiccicata e lei, sfinita, mi permetteva di sedere in un angolo del grosso tavolo. Mi metteva davanti dei pezzetti di papiro, dandomi il permesso di copiare. Ma io non facevo altro che chiederle il significato di ogni parola che scrivevo. E lei, borbottando dolcemente perché la distraevo, ne accontentava. Si accorse però che ero capace di scrivere come lei, con una grafia altrettanto chiara. Allora mi permise di diventare la sua aiutante, ma io continuai a farle domande. E lei, anno dopo anno, fece di tutto per rispondermi, occhi fissi sul lavoro, segretamente orgogliosa di me. Fu così che la mia bambola di lana rimase abbandonata nel cesto delle noci. Quel giorno di Ares, della prima settimana, stavo copiando un brano di Tucidide. Non potei frenare una domanda che mi bruciava dentro. Mamma, perché mio padre non ci porta mai da copiare libri scritti da donne? Poggiato il calamo sull'astuccio delle pastiglie d'inchiostro, sollevò il capo, fissandomi con occhi penetranti. Semplicemente perché non esistono, tranne le poesie di Saffo e di Prassilla. È la storia della specie umana, figlia mia, e riguarda non solo Fliunte e l'Argolide, ma l'Arcadia, la Beozia, l'Attica, l'intera Ellade. Ed è lo stesso fenomeno dall'Oriente alle colonne d'Eracle. I lineamenti del suo volto si erano incupiti. Da sempre la storia l'hanno fatta, scritta e raccontata agli uomini. La stessa mano che ha retto la spada ha usato anche il calamo. Re, faraoni, condottieri, arconti, strateghi, filosofi, attori, sacerdoti, cittadini, liberi, meteci anche schiavi, intenti a pensare, programmare, fare solo e soltanto guerre. Guerre di conquista, guerre di difesa, vinti che si alleano con i vincitori per conquistare altre terre, altri popoli, per continuare a fare le guerre, con la benedizione degli dèi. Piegò la bocca a un sorriso amaro. I libri li scrivono gli uomini, perché sono gli uomini a fare la storia. Noi donne non contiamo niente nel cammino umano. Se non fosse che solo noi possiamo fare i figli, l'uomo ci avrebbe già eliminate. Il suo sguardo volò oltre la finestra, verso lo spicchio di Acropoli che si intravedeva sulla lontana collina. E noi due siamo donne fortunate, Assiotea. Perché tuo padre fa questo mestiere. Altrimenti avremmo sprecato la vita aspettando un matrimonio, un funerale per poter mettere il naso fuori di casa, per poterci unire ad altre povere disgraziate davanti a un morto e piangere un'intera giornata. Si girò verso di me scrutandomi intensamente. Comunque non fui io a chiederti di non piangere la morte di tuo fratello. Mamma, non starla a sentire, zia Demodice. È un anno che non fa che ripetere questa storia. Non piansi né mi disperai perché non mi andava di dividere il mio dolore con gente estranea. Ermogene era mio fratello, gli volevo bene, ma lui non si accorgeva di me. Mi accorsi dell'amara commozione sul suo volto. Forse ci voleva bene, mamma, ma non poteva mostrarlo. Ma io avevo cercato di farlo crescere un po' diverso e invece la prima cosa che ha fatto appena raggiunta la maggiore età è stata quella di partecipare a una battuta di caccia. Un guizzo di dolore le deturpò il volto. Una battuta di caccia agli schiavi per farmi un bel regalo. mi disse, uno schiavo giovane e forte. Avevano avuto proprio una bella idea i Fliasi, copiando la caccia che si faceva a Sparta. Uno schiavo bello e robusto, per non sentire più la zia Demodice. Si nascose il volto fra le mani e si fece uccidere dal suo miglior amico, che lo aveva scambiato per un'ilota in fuga. Incontrai i suoi occhi ardenti d'emozione. Mi dispiace solo per te, figlia mia, perché agli occhi di tutte le parenti e le vicine tu sei la sfortunata figlia di Antinoe. Quell'Antinoe che il giorno del funerale del suo primo e unico figlio maschio, invece di mettergli un obolo tra le labbra e invocare Caronte di traghettare la sua anima sull'altra riva dell'Acheronte, invece di piangere e disperarsi, lanciò un'invettiva nei riguardi di tuo padre e di tutti gli uomini presenti, perché la responsabilità di quella morte ricadeva interamente sul loro scellerato modo di pensare. Mi scrutò intensamente. Mi dispiace per te, Assiotea. Ma non potevo tacere. Mamma, io quel giorno non piansi davanti alla gente anche per te, per far capire che non eri sola. Sorrise con amarezza. Vengo accusata da tuo padre di avere influenza negativa su di te. Sono la ragazza più fortunata dell'Ellade, mamma. Prese a ordinare tutti i fogli di papiro che aveva ultimato di copiare. Li controllò con attenzione e me li porse dicendomi di sistemarli nella cassa, nella parte dove c'erano meno fogli, sotto la vecchia borsa di cuoio contenente un libro di dubbia appartenenza, usò questa espressione. Però subito ci ripensò. Fu lei infatti ad alzarsi, ad afferrare la vecchia borsa dalla cassa e ad appenderla al gancio alla sinistra della finestra accanto all'altra borsa. Poi sistemò i fogli. Che vuoi dire, mamma? Di dubbia appartenenza. Non c'è un vero titolo dell'opera, anche se all'inizio parla più volte di un grande ordinamento. L'autore potrebbe essere un filosofo, un signore sconosciuto, tale Leucippo, di cui lessi tempo fa solo un accenno in un commento di Aristotele. Ma più che filosofo, a me pare un commediografo. Perché dici questo? Secondo questo pensatore, noi siamo composti da piccolissime particelle, invisibili ai nostri occhi. Gli atomi. Mamma Antinoe mi fissò stupita. Per Atena, oltre tutto il lavoro di lettura e di copiatura che ti assegno, tu leggi anche la mia parte. Oh, Assiotea! Mi venne accanto, mi strinse il capo al suo petto, soffocandomi d'amore. Con te gli dèi mi ricompensano di tutto. Strinse il mio volto fra le sue mani sporche di inchiostro rossigno, scosse il capo. Bella come sei, tuo padre non tarderà a darti in moglie a qualcuno, anzi. Mi stupisco che non ci abbia ancora pensato. Ormai hai 17 anni e hai raggiunto da un pezzo l'età adatta. Oh, Assiotea, che darei per saperti felice. Lo sono, mamma. Ma dopo potrai rassegnarti nel vedere che tuo marito ti userà solo per avere dei figli. E non è detto che non dovrai dividere la casa con una concubina. Ma nemmeno questo gli basterà, perché si accompagnerà quasi sempre con un'etera. Ma anche questo non è detto che gli basti, e spesso e volentieri andrà con le prostitute. E mi baciò la fronte. Quante cose vedranno questi tuoi occhi, Assiotea. E poi la loro grande passione, quella consacrata dai filosofi, il vero amore lo proveranno per un ragazzo. Tu hai visto tutte queste cose, mamma. Cercavo di frenare la mia commozione, non volevo che soffrisse ancora. Tutte, Assiotea. Ma sono stata meno sfortunata di tante altre perché tuo padre finora non ha trascorso in casa mai più di 4 mesi l'anno. E mi sferrò il capo con un bacio. Le accarezzai una guancia. Ci si può rifiutare di sposarsi? No, si può solo sperare che ti tocchi un uomo non molto feroce. E scrollava la testa con un gesto pieno di dolore e d'amore. Dovevo spezzare quell'atmosfera, allontanare quei pensieri dalla sua mente. Perché Leucippo ti sembra un commediografo, mamma? Lessi anch'io la nota di Aristotele, ma non ne ricavai questa impressione. Mi pare di aver capito che non solo il nostro corpo sarebbe composto di queste misteriose particelle, gli atomi, ma anche il nostro pensiero. Assiotea, come lo definiresti tu? I suoi occhi implorarono una risposta. Mamma, io credo che il nostro pensiero sia la parola dell'anima, dello spirito, di quella parte di noi che appartiene solo e soltanto a noi. Io ho la mia anima, mamma, tu hai la tua e appartiene solo e soltanto a noi. Ce la porteremo con noi sempre, fino alla morte. Ma allora questa nostra anima è un qualcosa di modificabile o no? Reclinò in avanti le spalle e la testa. Sei proprio tu, mamma, a offrirmi questa sicurezza. Tu ragioni in modo completamente diverso dalle donne di Fliunte, eppure tutto congiura affinché tu pensi come loro. Quindi il tuo pensiero, espressione della tua anima, è modificabile. Anzi, si è modificato. Sentivo un fortissimo desiderio di farle sentire la mia solidarietà. Assiotea, stai ammettendo che la nostra anima, quel colore di luce o di tenebra che ci portiamo dentro dalla nascita, può essere modificato lungo l'arco della nostra vita. Ti rendi conto di quello che stai dicendo, figlia mia? Mamma. Io ragiono in un certo modo perché la mia anima ha avuto la fortuna di confrontarsi con la tua. Manca la prova contraria, certo. Né tu né io sappiamo come sarebbe stato il mio pensiero se non fossi stata figlia tua, ma di un'altra donna, di un'altra città, di un'altra terra. Ma la nostra sì che è una prova. Tu ragioni in modo diverso da zia Demodice e da tutte le donne di Fliunte, perché sei stata in contatto con il pensiero di tutti i filosofi, gli storici, i commediografi e i poeti dell'Ellade. Io sto seguendo le tue tracce e la nostra anima, fatta di quelle piccole particelle che Leucippo chiama atomi, si trasforma. Ma se davvero sei convinta di questo, vuol dire che non c'è possibilità alcuna di salvare l'Ellade e tutto il mondo da questa condizione? Schiavitù e guerre, guerre e schiavitù? Mamma, non so quello che accadrà nel corso della storia, ho una sola certezza, non credo negli dèi. So che il mio destino è affidato a due forze, la forza del mio pensiero, della mia anima, e quella del mondo. Se la forza del mio pensiero riuscirà in qualche modo a interessare altri esseri umani, potrà esserci una speranza di cambiamento, altrimenti le cose resteranno così come stanno ora. Strinsi le mani tremule di mia madre tra le mie. Oh, figlia mia, guiderai tu il tuo destino o ne sarai travolta? E si mise a riporre i codici nelle casse sistemate lungo la parete, a preparare le pastiglie d'inchiostro, a pestarle, per continuare il nostro interminabile lavoro di copiatura. Ogni tanto, però, mi gettavo occhiate tenere, adombrate d'inquietudine.